il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La gallina più celebre è probabilmente veneta, o meglio padovana. È nota da secoli in tutta Europa, famosa per le sue carni, ma quante persone saprebbero realmente distinguerla dalle altre razze di gallina? E quanti hanno mai assaggiato le sue carni? Non è così facile trovarla nemmeno nel territorio di origine. Però, per saperne di più, per sapere da dove viene e che caratteristiche ha questa gallina, abbiamo oggi con noi il professor Gabriele Baldan, insegnante all'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia di Padova, ed è anche la persona che cura il progetto di conservazione presso l'Istituto proprio della gallina padovana, in collaborazione con l'associazione Pro Avibus Nostri. Grazie professore di essere con noi. Prego, buongiorno a voi. Ecco, intanto la prima cosa, cos'è la gallina padovana, qual è la sua particolarità e da dove viene, perché quindi proprio a Padova? La particolarità più significativa è la presenza di un grande ciuffo di penne sul capo, sia nel gallo che nella gallina, e al mento, quindi a creare una barba di penne. La sua provenienza è molto lontana nei secoli, si ritiene che, come altri polli, arrivi dall'Oriente. Una delle tappe potrebbe essere stata la Polonia, a cui si rifanno parecchi storici di questo argomento, con riferimento alla famiglia Dondi dall'orologio, che secondo queste ipotesi avrebbe importato dalla Polonia dei gruppi di padovana, allora non certamente chiamata con un altro nome, ma naturalizzati a Padova, probabilmente a Casalcerugo, dove i Dondi avevano una tenuta, e siamo nel 1300, e da allora si avrebbe anche acquisito il nome effettivo di padovana. Quindi una gallina che viene da secoli fa. E sì, come caratteristica, diceva, per riconoscerla principalmente il ciuffo. Quando noi nel territorio veneto, non solo padovano, vediamo anche negli allevamenti di alcuni contadini queste galline con queste piume, con questo ciuffo, è probabile che sia padovana, oppure c'è qualche altra caratteristica per capire se è vera padovana? Sì, in effetti ci sono altre caratteristiche, perché ci sono due razze con il ciuffo in testa nella provincia di Padova, curiosamente. L'altra è la gallina polverara, che porta il nome del comune di Polverara nella Sacisica, e che probabilmente hanno qualche ascendente in comune, perché sono le uniche due razze italiane con il ciuffo. Però le differenze esistono anche tra loro due. La polverara ha un ciuffo molto più piccolo, con gli occhi scoperti, e la barba parzialmente coperta, a volte anche da barbigli, mentre la padovana ha un ciuffo molto più esteso ed ampio, che copre gli occhi, limitando anche il campo visivo dell'animale. Le zampe poi cambiano un po'. Le zampe della gallina di polverara, secondo gli standard di razza, dovrebbero essere verde oliva o verde salice, però tendono anche ad essere un po' più nere, mentre la padovana ha le zampe sempre grigio ardesia, grigio lavagna, se vogliamo, e quindi questa differenza le consente, il ciuffo molto ampio e le zampe consente di riconoscere la razza sul territorio. C'è un ultimo particolare: la taglia dovrebbe arrivare sui maschi a 2,2 kg e 1,6 kg per la femmina. Se sono più piccole, vuol dire che sono incroci o di altre provenienze. Ecco, ma quali sono le caratteristiche che l'hanno resa famosa? L'aspetto o anche a livello di gusto, di come era preparata? Inizialmente credo si ritiene senz'altro l'aspetto, però sì, l'aspetto è anche legato a certe predisposizioni della società e dell'epoca, perché mi viene in mente che in pubblicazioni del 1800 la padovana, oltre che essere citata per l'aspetto estetico, era rinomata per le uova e anche per la carne. Quindi a seconda dell'utilizzo, dell'interesse che viene espresso nei suoi riguardi, può rivelare pregi in entrambi gli aspetti, sia estetico che gastronomico. Sono state fatte delle analisi anche chimiche così sulle carni di questi animali che hanno dimostrato delle diversità rispetto ad altri, oppure sì, no? Sì, recentemente, siccome abbiamo da qualche anno diverse collaborazioni con l'Università di Padova, recentemente è confermata una diversità, un pregio di queste carni, che sono ricche di ferro edibile, come si usa in termini tecnici, nel senso di ferro facilmente assimilabile dal consumatore, in quanto deriva dal fatto che gli animali maturano abbastanza a lungo, nel senso che vengono messi in commercio circa 6 mesi. In questa età maturano anche, sviluppano una muscolatura ricca di ferro, perché si muovono abbondantemente nei pascoli, nel piccolo pascolo che hanno a ridosso del recinto di allevamento, e quindi accumulano questo prezioso minerale che diventa un pregio anche per la sua carne. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Siamo in linea con il quadrifoglio, oggi stiamo parlando della gallina di razza padovana, lo stiamo facendo con il professor Gabriele Baldan, insegnante all'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia di Padova, E stavamo parlando appunto delle caratteristiche della gallina. Vorremmo capire adesso anche dove si può trovare, o meglio, chi sta allevando questa gallina, perché non è così diffusa nel territorio. Lei ci diceva che il lavoro che voi state facendo di conservazione è in collaborazione con un'associazione anche che si chiama Pro Avibus Nostris. Il nome dell'associazione prende origine dal fatto che la prima descrizione era in lingua latina e quindi ambiziosamente ci siamo rifatti alla vecchia lingua nata in Italia. Come associazione abbiamo dei gruppi di riproduttori da cui otteniamo i pulcini ogni anno. Vengono distribuiti ai soci, ai nostri allevatori, oppure vendiamo direttamente su prenotazione i pulcini che anche i singoli allevatori amatoriali o ad uso domestico, i privati cittadini ci chiedono, facciamo le prenotazioni e poi li consegniamo concordando i tempi. Quindi, di fatto, se uno volesse avere fare un allevamento di galline padovane, tra virgolette, DOC, perché non credo sia a marchio, di fatto possono rivolgersi a questa associazione. Sì, o all'istituto direttamente dove ci rimandano al nostro interno, l'istituto San Benedetto da Norcia di Via Cave a Padova, oppure si trovano anche nel sito Slow Food, perché è un presidio Slow Food della Ok. Gallina Padovana, ci sono dei riferimenti telefonici che riguardano il nostro, oppure c'è anche un indirizzo di posta info@gallinapadovana.org a cui si può scrivere e ci premuriamo di rispondere. Ecco, più o meno quanti allevatori e anche quanti capi, se si dice così, quante galline padovane ci sono, vengono allevate? Ecco, c'è da dire che noi siamo circa una dozzina tra amatori e allevatori a numeri diversi di allevamento. La gallina padovana non è patrimonio nostro, quindi la si può trovare, a volte anche, la si può trovare anche presso altri allevatori, ci può sorgere certamente il quesito dell'affidabilità della razza e quello che poi ogni utente può fare riferimento alle sue conoscenze o alla sua fiducia rispetto a chi gliele propone. Noi alleviamo circa 5.000 pulcini all'anno, vengono prodotti e distribuiti presso allevatori soci o allevatori privati, e di queste una quota va nel commercio della ristorazione padovana di qualche macelleria o di pastifici, di cui siamo un po' orgogliosi. Ultimamente sia soprattutto a Valeggio sul Mincio e in parte a Padova si creano dei tortellini ripieni di gallina padovana che hanno un buon riscontro e apprezzamento. Ecco, a livello industriale, invece, diciamo così, di grossi allevamenti, forse non è una delle razze più appetibili, nonostante il nome, oppure potrebbe diventarlo. È una questione di qualità-prezzo, nel senso che è un prodotto che una gallina per raggiungere, come dicevo, una maturità commerciale occorrono almeno 6 mesi, 5 mesi e mezzo, e di conseguenza ci sono costi di mantenimento più elevati, hanno un indice di accrescimento più ridotto rispetto ai polli commerciali, Che hanno quindi una maturazione inferiore. velocissima, sì, un pollo, i polli che si acquistano normalmente al grill hanno 35-40 giorni, anche tutti i prodotti trasformati di seconda fascia, tipo i petti di pollo, raggiungono al massimo 40-50 giorni. E quindi sono polli velocissimi nella crescita, poi sta a ognuno di noi valutare la qualità del prodotto e orientarsi su quello che Certo. si preferisce e sui costi evidentemente. È un prodotto di nicchia che ha un suo costo e quindi è difficile che raggiunga livelli industriali di grande diffusione, almeno c'è anche poi una problematica di commercializzazione che è legata al fatto di essere un prodotto fresco con deperibilità Certo. da rispettare e quindi una distribuzione sul territorio implica una logistica impegnativa. Ecco, no, glielo chiedevo perché è uno dei prodotti che hanno un nome noto, cioè quando un padovano va in qualsiasi parte d'Italia, a parte Sant'Antonio, una delle poche cose che conoscono della città è la gallina padovana, sì, e quindi esatto. Ha già un nome che, se trovassero adeguatamente sfruttato a livello commerciale, forse potrebbe avere un suo successo. Però mi pare che i numeri, non so se esiste comunque un progetto di promozione, e così pensate magari in collaborazione con le autorità. Sì, ci sono state varie iniziative in passato, adesso è una fase un po' più tranquilla. Diciamo che l'aspetto, il nodo più difficile da sciogliere, volendo distribuire il materiale per cucina, cioè come carni, richiede degli investimenti che certo. Attualmente non sono stati affrontati, e gli enti pubblici e territoriali su questi aspetti certo. In effetti non possono affrontare. Quindi non esiste un marchio che certifichi che io dal macellaio sto acquistando la gallina padovana ad hoc, devo fidarmi di quello che mi dice il macellaio. Beh, a questo riguardo noi come produttori che siamo riconosciuti da Slow Food come allevatori di gallina padovana, forniamo alla macelleria, al di là della fiducia reciproca che può esistere tra il gestore e il cliente, delle etichette che riportano i riferimenti di Pro Avibus Nostris. Alla ristorazione forniamo delle cialde con stampato su una faccia un marchio depositato, nome collettivo, presso la Camera di Commercio di Padova, dove c'è il Prato della Valle con all'interno disegnata la gallina padovana e con le scritte Pro Avibus Nostris. Quindi perfetto. Sul piatto del consumatore, dell'ospite, arriverebbe la porzione con la cialdina a fianco ad attestare che proviene dagli allevamenti dei soci. Quindi se siete al ristorante, vi portano la gallina padovana e c'è anche una cialdina, siete sicuri che quella è proprio gallina padovana. Esatto. In conclusione, se vuole ripetere il nome del sito internet o l'indirizzo a cui avere informazioni, ed anche magari anche un paio di posti dove siamo sicuri di poter trovare questo prodotto. Abbiamo macelleria Beghin a Brasseo di Teolo, un ristorante qui in prossimità di Padova al Bosco di Saonara, o la Montanella di Argua Petrarca, recentemente, che fanno più frequenti i nostri clienti, o i Tortellini di Valleggio, siamo a Fratelli Remelli di fronte alla chiesa a Valleggio, come Tortellini, che sono nostri buoni clienti da tempo. Ecco, il sito internet dobbiamo rinnovarlo. Abbiamo l'indirizzo di posta, è info@gallinapadovana.org, o al telefono 620274 del nostro istituto 049 di prefisso. L'istituto San Benedetto Agrario, San Benedetto d'Annocio di Padova. Esatto. Sì. La ringrazio. Grazie a voi. Andiamo a chiudere la trasmissione, ma abbiamo tempo ancora per una notizia. Cominciano a fine gennaio, con l'anteprima dell'Amarone, le grandi rassegne dei vini del Veneto, dal 28 al 30 gennaio, e in realtà per gli appassionati domenica 29 e lunedì 30 nel Palazzo della Gran Guardia di Verona si tiene appunto l'anteprima Amarone 2013, e 2013 sta per l'annata che viene presentata, che è quella che viene messa in commercio quest'anno di Amarone. Ecco, sabato 28, domenica 29 gennaio e lunedì 30, ingresso a pagamento. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrafoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato? Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.